1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh, oh. Questa influenza non vuol passar più. Stretto in casa guardo la TV. Noia sale la mia testa. Se adesso dormo non mi basterà. Oh, oh, oh, oh, oh. Tra la play, la Rai ed MTV. Il cervello in panne ed ora sì. Prigioniero di quattro mura, schiavo di una malattia domestica. Non ne posso, occhi gonfi dalla noia, trascurato nella mia intimità. Non ne posso più, anche il tempo sembra non dar retta. Chiuso in casa fuori sembra un dì di festa. C'è il sole alto, il cielo è azzurro. Ma quando poi uscirò vedrai che torna autunno. Prigioniero di quattro mura, schiavo di una malattia domestica. Non ne posso, occhi gonfi dalla noia, trascurato nella mia intimità. Non ne posso più, sotto effetto di pastiglie anche il mio fegato oramai non ne può più. Da Costanzo e Berlusconi che mi rompono i coglioni, io non ne posso più. Non ne posso più.